reportage. Mercatini di Natale 2.0. La svolta si chiama Europa, di Anna Marino. Passo dal Natale con le sue innumerevoli bancarelle e rivenditori ambulanti di ogni delizia ed oggetto e a un passo dalla ricaduta a pioggia dell'applicazione pratica su di loro delle nuove regole della direttiva Bolkestein. Stringono i tempi ed emergono sempre di più criticità. La direttiva è nata per fare da volano ai servizi che rappresentano il 70% dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione Europea. Ma da mesi salgono le voci delle manifestazioni in diverse città in Italia contro il decreto legislativo che la attua. Licenze e posteggi saranno riassegnati con gare pubbliche. Questo rischia di mettere in difficoltà piccole e piccolissime imprese locali che potrebbero perdere il posto occupato da una vita perché poco competitive sui mercati troppo vasti e rischia di mettere in crisi lo stesso commercio ambulante su aree pubbliche. Ma a volte nemmeno queste microimprese conoscono se e come sono coinvolte, come questi operatori del mercatino del gusto di Natale di City Life a Milano. Bisognerebbe conoscere nello specifico quali sono le norme che regolano questa legge, insomma. Qui questo è un progetto chiuso che è stato voluto così per valorizzare questa area nuova di Milano con un tema preciso che è il tema del gusto, il tema del food. È una proposta che non vuole nemmeno confondersi molto con quelli che sono i mercatini di Natale. E a Venezia chi gestisce le bancarelle tradizionali è più informato e fa un parallelo con le spiagge. Le informazioni che abbiamo sono queste, che non ha che l'Europa l'ha accolta. Solo l'Italia l'ha accolta e qualche altro paese, ma non si sa chi. Prima era nata per le spiagge e tutte le spiagge, magari che so, se le prendono i tedeschi, se le prendono gli inglesi ci sono più e non restavano più in mano agli italiani. È la nostra vita. Io ci ho dato 45 anni di lavoro qua, vanno a bando e secondo me dovrebbero essere come sono adesso. Vabbè, siamo operatori che non pesano nelle spalle dello Stato, non abbiamo cassa malattie, non abbiamo cassa integrazione, cioè non costiamo niente allo Stato perché mettetelo un po' in regola chiaramente, anche a Venezia ci sono dei problemi, a Bolkestein è stata una cattiveria. È che ci siano da rivedere delle cose, questo è indubbio. Io sarei più per... ci sono delle regole che non funzionano adesso probabilmente. In città come Venezia ci sono delle situazioni che sono irregolari, nel senso che ci sono delle attività che negli anni sono diventate abusivamente fisse e si può rivedere cercando di salvaguardare, secondo me, attività e famiglie, anche perché da quanto leggevo sono più o meno 200.000 attività in giro per l'Italia, c'è un sacco di gente che fa sti lavori. La scorsa settimana, prima del referendum, il governo aveva annunciato di lavorare a una proroga al 2020 della scadenza di ogni concessione esistente. Ora è tutto in stallo. Secondo Confimpresa Italia sono a rischio 1 milione di ambulanti, compreso l'indotto. Rimane perciò in stand-by la richiesta di Imprese Oggi, che raccoglie gli ambulanti dell'associazione, al governo di intervenire per sospendere l'applicazione della nuova normativa fin da subito, come sottolinea Marrigo Rosato, responsabile organizzativo di Imprese Oggi. Chiediamo al governo di sospendere immediatamente le procedure dei bandi previste dal decreto 59 che ha recepito la cosiddetta direttiva Bolkestein dei servizi. Sono bandi che alcune regioni hanno già avviato con procedure dal mese di novembre e quindi parliamo di regioni importanti come il Piemonte e la Toscana e poi ci sono altre regioni che invece sono in procinto di avviarli. Parliamo di bandi che attengono a 800.000 concessioni di suolo pubblico, che interessano 196.000 aziende di ambulanti e a conduzione prevalentemente familiare, altri tipi di concessioni, ovvero i chioschi, tutti coloro che occupano il suolo pubblico a vario titolo, quindi anche bar, ristoranti, le edicole. Quindi c'è un mondo che è interessato da questa direttiva e diciamo oggi viene sollevato prevalentemente dal mondo dell'ambulantato, ha manifestato a Roma, a Napoli, a Torino, a Milano, a Venezia, a Bologna, a Genova, a Bari. In tutte le città ci sono delle richieste, delle istanze. Che cosa si rischia? Si rischia innanzitutto che questi operatori vedranno rinnovata la loro concessione per una durata temporale limitata e quindi quando anche loro partecipassero ai bandi e gli venisse riassegnata con un nuovo titolo, la concessione di cui loro oggi sono titolari, poi però la vedranno scaduta tra 7, 9 o 12 anni, quindi perderanno ogni titolo ed ogni diritto ad esercitare sui propri posteggi. Poi in base alla normativa non potranno essere riconosciuti ulteriori vantaggi loro, e quindi perché saranno tecnicamente considerati come prestatori uscenti, ma comunque si crea un problema sociale enorme, perché 196.000 aziende diverranno di fatto privo di titolo, disoccupati insomma, e per poter esercitare nuovamente sui loro mercati o sui loro posteggi dovranno partecipare a bandi con evidenza pubblica e quindi al miglior offerente, con il rischio che poi queste concessioni possano essere anche acquisite da società di grandi capitali, della grande distribuzione alimentare e non, che magari potranno avere interesse ad entrare ad esercitare nei grandi mercati più importanti. Cosa chiedete al governo? Il governo si deve far carico di un problema sociale enorme che riguarda questa categoria, perché la direttiva Bolkestein è stata recepita in maniera troppo leggera nel 2010, senza un adeguato approfondimento, e quindi deve, poiché vi erano tante ragioni per poter escludere il mondo dell'ambulantato, ma anche delle altre categorie che occupano il suolo pubblico, deve rivedere questa questione con l'Unione Europea, riaprire un tavolo tecnico come già è stato convocato il 3 novembre scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e quindi sospendere, prendere tempo, ma intanto bloccare immediatamente per un tempo congruo, almeno 2-3 anni, 2020, ma ci sono senatori anche che hanno proposto il 2030. La direttiva è stata pensata per dare maggiore spazio e libertà al commercio. Si calcola che dal commercio appunto ambulante, dal microcommercio, possa derivare, soprattutto dai servizi, possa derivare un impulso all'economia. Non solo italiana ma di tutta Europa. Secondo lei è così? No, guardi, intanto parliamo di un settore che già è cresciuto negli ultimi 5 anni del 10%, è passato da 180.000 a 196.000 aziende, quindi nonostante la crisi questo è un settore che è cresciuto, in cui si sono avviate ben 16.000 attività in pochi anni, su cui nonostante la mortalità c'è un ricambio all'interno, e questo è un settore che sviluppa 25-26 miliardi di euro annui, assorbe e sviluppa il 2% del PIL nazionale, e noi temiamo che invece, piuttosto che creare sviluppo, la direttiva Bolkestein crea incertezza, frena gli investimenti, perché gli operatori non potranno più accedere al credito se la loro concessione verrà limitata nel tempo, e quindi noi temiamo che si bloccheranno anche gli investimenti sulle proprie aziende. Le concessioni che sono state erogate negli anni, quante sono e a quante ammontano? Parliamo di circa 800.000 concessioni. Tenga presente che noi non abbiamo minimamente accennato al settore dei fieristi, che sono anche un mondo che riguarda, ovvero tutti coloro che svolgono solo ed esclusivamente attività nelle fiere, nelle feste patronali, nelle sagre, e sono operatori che hanno un titolo specifico, cosiddetti da itineranti o fieristi, che sono parecchie centinaia di migliaia in tutta l'Italia. Noi parliamo di 1 milione di soggetti tra collaboratori, titolari di aziende e dipendenti e l'indotto, quindi è una cifra importante, un numero importante di persone e di aziende. Ma forse pochi sanno che oltre alle liberalizzazioni ci sono delle garanzie. La direttiva adotta il principio del paese di origine per evitare che chi si sposta diventi matto a studiare le leggi di tutti gli stati membri, ma rimane salvo e garantito il diritto del lavoro del paese di origine, cioè tutto ciò che comprende salario minimo, salute, igiene, sicurezza, diritti delle gestanti e puerpere, diritti dei bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna, ferie retribuite. Si salvano anche il diritto allo sciopero, le condizioni di assunzione e di licenziamento e gli oneri previdenziali. Ci sono anche delle deroghe che riguardano la distribuzione di energia elettrica, gas e acqua e le qualifiche professionali, i diritti di autore o le ragioni di ordine pubblico, salute e sicurezza. La direttiva Bolkestein promuove infine la tutela dei consumatori, l'assicurazione professionale, la risoluzione delle controversie, la collaborazione tra autorità nazionali e la creazione di codici di condotta. Tutto questo rimane italiano e non si toccano le tradizioni, anche quelle di Natale. Euro Reportage. in collaborazione con Euronet Plus.